siamo pacchi dall'est. Sto con i sbull trappando un pacco da Bucarest. Fumo così tanto che mi perdo. Il mio blocco orologio Armani vestito di bianco, da due ponti a Rione Monti, luglio agosto sta nevicando, il mio puntato parla rumeno, dallo qua e su un telefono, suona, non vorbesco guarda, vorbesco ora in euro, che fa Danny Blanco, cassa Duca Marfa, ho la spada dietro, le volanti in piazza, si chiama Scolani, ti svoltiamo casa, faccio le trazioni insieme a Tom, faccio le trazioni insieme a Tony, Apollo, Creed, Rocky, Bass e Les, Vladimir Putin, Jim, e non ho te spalle, due gorilla pensi, mangio pollo al blocco, fanculo sushi, portiamo pacchi dall'est, sto con i sbull trappando un pacco da Bucarest, fumo così tanto che mi perdo, troia uguale che la scopo da dietro, portiamo pacchi dall'estero. Sto con i sbull trappando un pacco da Bucarest. Fumo così tanto che mi perdo. Troia uguale che la scopo da dietro. La mia troia è colombiana, profumato come una puttana, volo in alto come l'Italia, lei si accolla come guardia a casa, la tua tipa sotto casa, dovrei cambiare città, dovrei spendere un po' di meno, soldi gratis già da un pezzo, rock and roll, Jimmy Hendrix, triplo 7, lei mi supplica in ginocchio, non la scopo, sono innamorato, tatuaggi come un messicano, alzando soldi tutto l'anno, ci prendiamo tutto quanto, ti vedo in faccia, sei preoccupato. Portiamo pacchi dall'est, sto con i sbull trappando un pacco da Bucarest, fumo così tanto che mi perdo, troia uguale che la scopo da dietro, portiamo pacchi dall'estero, sto con i sbull trappando un pacco da Bucarest, fumo così tanto che mi perdo, troia uguale che la scopo da dietro.